Pane burro rock and roll, sono le 7:30 primi. Medaglia, medaglia, medaglia, medaglia, c'è qualcuno che sta ancora dormendo. Medaglia, medaglia, medaglia, medaglia. Noi invece siamo già svegli. Medaglia, medaglia, medaglia, medaglia, medaglia. È l'invidia il peccato capitale scelto da Pane Burro e Rock and Roll. E voi siete invidiosi? Fanno notare via SMS, gentile. Intanto buongiorno dall'Ariele, Spadino, Freak, la squadra, Pane Burro, Rock and Roll, Trigetrin, Trigetra, Frombetta, fino alle 9, la missione, quella roba lì. Che avremmo potuto scegliere il sesso come peccato capitale. Sì, è vero, ma era ovvio. Dice, avremmo anche potuto sviluppare qualcosa con i racconti piccanti dei nostri radioascoltatori e le radioascoltatrici. Alle 7:30 del mattino? E poi è ovvio, scontato, dai, su. No, no, no, no. L'invidia è il nostro peccato. E con lui proseguiremo. Tra l'altro le altre emittenti radiofoniche, medaglia, medaglia, medaglia, sicuramente lo dicono, perché le Zeppelin col casulo loro non ce li hanno. It's a god awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on. Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Blue Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a saddening ball, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to focus on. Brianino sarebbe orgoglioso dell'Ariele. Life on Mars, David Bowie. Ho una strada, col mio kazoo, secondo me farò strada. Peccato che mi cala la voce così in maniera impressionante. Ma ciao! Ecco quello. I lamentini a quest'ora siete, tutti lamentini. Bravi, siete rock anche lamentini. Vitellozzo invidioso perché saluto quelli della prima ora, della prima mezz'ora, dei primi 10 minuti, del primo quarto d'ora e mai quelli delle 2 ore. Ma a voi Vitellozzo vi amo molto di più. Scusa. Che poi uno. Spadino, sono sempre un po' in imbarazzo ad annunciare le Zeppelin in quel caso, non so perché. Però stavo pensando. Anche Puff Daddy aveva preso delle robe da Kashmir, ve lo ricordate? Quando anni fa ci fu quel film, la colonna sonora del film Godzilla, Le dimensioni contano, sottotitolo. Era un sottotitolo che mi era rimasto impresso. E Puff Daddy, quello là che fa rap, yo, aveva preso Kashmir. E nessuno si era alzato in piedi a dirgli, ehi, cosa fai a toccare Kashmir? E allora anche noi di Pane, Burro e Rock and Roll, volendo rivalutare anche contemporaneamente l'importanza del kazoo come strumento popolare e quindi a rivalutare nella sua povertà va bene, Kashmir come non l'avevate mai sentita prima, col kazoo. Interpretano l'Ariele, Roberto Fricantoni e Isaac Rizzi. Voleteci bene lo stesso, per favore. Ah, che bella. Senti che bella. Mi fa strippare quando attacca la voce, eh. Senti. Qua, vai! C'è sentimento. Gran sentimento. Ocho, eccolo. Interpretazione. La trovate su myspace.com/paneburrofm. C'è qualche commento? Ah, quello lì. Io avrei un'idea dove mettervi quel kazoo. Arms are wicked and her legs are long. When she moves, my- Le rubo il microfono perché quest'oggi a bomba voglio iniziare la rubrica dei compleanni del giorno, perché il 30 di gennaio del lontano 1882 nasceva il mitico Franklin Delano Roosevelt, 32esimo presidente degli States. Un gigante, vero, eh? Io Mike posso, che mi sono impossessato del corpo di Fricantoni, posso ben dirlo. Non dica stupidate. Un grande presidente, sì, nonostante sì. Quel secondo nome. Quale? Dilano, Non le piaceva. Dilano, insomma, è un po' ambiguo, Sì, va bene. E lei sa che io non sopporto i culattoni. Proseguiamo col 30 di gennaio del 1930, un filino, ma pochissimo. Nasceva Gene Hackman, attore americano, lo ricordiamo nel Socio, negli Spietati, oppure in Mississippi Burning. Mentre nel 1943, il 30 di gennaio, finalmente sono riuscito a liberarmi. Fortuna, guardi, dello spirito lei non di sa Mike. Che figuraccia le fa fare quello. Io non so, infatti vado in trance, non ricordo nulla, non so nulla. Comunque nel 1943 Marty Balin fu il primo cantante dei Jefferson Airplane e nacque il 30 di gennaio. Sempre oggi del 51 nasceva Phil Collin, celeberrimo batterista, cantante dei Genesis e poi una grande carriera da solista. E chiudiamo in bellezza 1963. Ecco di nuovo. Ha detto Mike che non tornava mai. Devo impossessarmi perché? Del corpo. Vuole di fare Fritz. Lei gli auguri di compleanno? A Susanna Messaggio, ecco, conduttrice televisiva, ma soprattutto mia valletta. Ricordi i servizi di quali? Di Susanna, i servizi televisivi, ecco, che faceva Susanna Messaggio. Auguri Susanna. Messaggio d'auguri, allegria. Notorious, McCartney, Jack Bruce. Beh, loro sono veri maestri del basso. Amici, fidatevi di noi, non diventerete mai come loro. O meglio, non lo diventerete mai se continuerete ad ostinarvi a voler suonare il basso con le dita. One, two, three, four. Pane, burro e rock and roll vi dà l'occasione di diventare bassisti rock con la bocca. Iscriviti al provino gratuito inviando un sms al 335-100-7777 con la scritta rock con la bocca. Sì! Non perdere l'occasione di riscrivere la storia del rock con la bocca. Speed Vegan, Keep on Loving You, 7 e 49 minuti primi, quasi 50 all'orologio rock, di pane, burro e rock and roll. Sì, è vero, lo sappiamo, lo capiamo, siamo un po' arteriosclerotici, ci piace fissarci su alcune cose. Tra una delle tematiche portanti di questa trasmissione è far venire, sapendo, essendo consci che abbiamo all'ascolto tanti musicisti, ma soprattutto anche tanta gente che avrebbe voglia di suonare uno strumento, ma poi magari sai com'è, non ho tempo, non lo riuscirò a fare, invece vogliamo farvi venire quel friscicorino. Ma sì, dai, oggi mi compro una gran cassa, così. In questo filone ricorderete per esempio Matte, il nostro tredicenne di riferimento di Firenze, che tra l'altro è un bel po' che non stiamo sentendo. Matte, se sei all'ascolto, domani mi faccio sentire, che ci racconti come va la band. Mandiamo spesso e volentieri in onda genitori che comprano strumenti ai propri figli, ma in realtà non è mai troppo tardi. Diamo il benvenuto a Stefano, 31 anni. Buona giornata, Stefano. Buona giornata a te, Ariele, e buona giornata a tutti gli ascoltatori. Stefano, che ha nella vita reale un lavoro super rock, cosa fai? Molto rock, faccio il meccanico di moto alla Ducati. Bah, più rock di così, guarda. Veramente non si può. Allora, dobbiamo, mi mandi un messaggio perché dici: devo ringraziare la mia compagna Alessandra. Alessandra, giusto? Esatto. Che ieri ti ha fatto un regalo. No, quando te l'ha fatto il regalo? Mi ha fatto un bel regalo ieri sera quando sono tornato a casa. Mi sono trovato in un sacchetto il corso di chitarra con un relativo plettro, anche il diapason per accordarla, insomma. Dai. E ieri sera ci ho dato un po' dentro a cercare. Con Alessandra o con la chitarra? Scusa, con la chitarra. Perdonami, era una battuta che mi è venuta proprio così. Vabbè. Ma era un'occasione particolare o così, tanto per? Ma un'occasione, perché anche a lei ha riscoperto la sua vena musicale, lei ha fatto conservatorio molti anni, suona flauto traverso. E non faccio quindi battute su questo, Basta, battute. Già, ne ho già fatta una. Scusa. E quindi appunto sta riprendendo a suonare anche lei. Io sono tantissimi anni che ascolto rock e sembra che sono appassionato di rock. Certo. Soprattutto il suono della chitarra, quindi insomma è venuta questa voglia. Avevamo una vecchia chitarra acustica che era lì ad ammuffire. Ad ammuffire, l'ho spolverata domenica molto bene. Abbiamo sostituito le corde, così ho cominciato un po' ad accordarla ieri sera. Anche ecco, se quello è sempre lo step 1. Guarda che quello è un dramma, accordare la chitarra. Sì, assolutamente. Pensavo, dico, va bene, una mezz'oretta si accorda, invece ci vorrà una settimana, penso, per farlo bene. Beh, dipende anche da quanto era lì la chitarra o se le hai messe le corde nuove. Le corde nuove le ho messe. Ecco, allora va bene. Senti, come ci si trova con questi corsi, insomma, in DVD? È di qualcuno in particolare, qualche smanettone americano, robe così? No, magari è un italiano, non mi ricordo il nome. Un italiano che dice: ok, vi insegno a suonare la chitarra. Sì, sì, sì, però per ora ho fatto soltanto la parte accordatura. Cantata. Ma come te la fanno fare, col diapason? Col diapason. Perché comunque lo consiglia rispetto all'accordatore, quello elettronico. Perché lui è un figo, però, scusami, Scusa? Lui lo consiglia perché lui è un fichetto e dice: io lo accordo ad orecchio. Sì. È vero, così ci fai anche manualità. No, perché è uno step. Adesso non voglio fare il saputello, però spesso e volentieri l'accordatura è uno di quei passi che se non fai, poi dopo ti passa la voglia di suonarla, perché effettivamente se non riesci ad accordarla la chitarra, poi dopo che cazzo suoni, fa schifo, quindi la rimolli lì. Quindi ti dico, dovesse che poi ti trovi un po' male con accordarla col diapason ad orecchio, con quei meccanismi lì, o ti compri la bella macchinetta che ti fa vedere con le luci dove stai accordando e stai preciso, Ok, allora, cioè, non se faccio... va male, seguo ecco, la strada. Cioè, non desistere solo per l'accordatura, che è un passaggio di quelli un po' così. Non desisto, io tengo duro, non ti preoccupare. Poi tra qualche giorno andiamo a prendere la chitarra elettrica, ok? Assolutamente, sicuramente. La regalano le mamme ai ragazzini di 11 anni, non vedo perché non comprartela tu, Steve. Che puoi pure permettertela, tra l'altro. Sì, speriamo, dai, volentieri. Che la redazione che si sbraccia, non capisco. Sei di Celle Ligure, tu? Sì. Stai chiamando da Celle Ligure? Sto chiamando da Celle Ligure. E scusa, Stefano, non mi dici nulla? Cioè, abbiamo un raduno. Non te l'ho scritto. Eh? Ah, ecco, sì, l'hai scritto, ma lo vedevano loro. Allora ci vediamo domenica. Assolutamente. Allora porta anche la chitarra che ti facciamo una scherza. Sì, forse è meglio di buona giornata a te ed Alessandra. Viva chi compra i plettri nuovi e i corsi per chitarra. Ciao. Bravissimo, ciao ciao. Non è mai troppo tardi. Il consiglio di pane, burro e rock and roll. Si suona tutti, che fa bene alla salute. A volte, a volte no. Get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain and hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. George. He knows all the chords. But he's strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any no guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything. Saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. And a crowd of young boys there fooling around in the corner, drunk and dressed in their best brown baggies in their platform soles. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans play Creole. Buongiorno, sono Ariel di Rock FM Milano. Sì. Stiamo facendo un po' di telefonate per chiedere alla gente se possono ascoltare la nostra trasmissione mattutina che va in onda dalle 7 alle 9. So che forse voi siete la concorrenza, però... Quindi io cosa dovrei fare? Noi chiediamo la gentilezza se vi va di ascoltare. La trasmissione è un format abbastanza vincente dove c'è anche Roberto Freccantoni. Beh, non so, io rispondo per me. Sì. Io quell'ora lì sono in treno, per cui no. Non ho problemi. Non riesco a ascoltare neanche la mia radio, insomma. Ho capito. Beh, si può, buongiorno, Roberto Freccantoni di Schianto, si può lasciare un post-it alla redazione dove si chiede... Mandate un'email. Un'email. Radio Pop. Radio sì. Pop, sì. Chiocciola radiopopolare.it. Ho capito, va bene, prego, così faremo. Scusi, l'ultima domanda. Volevo chiedere come andava il mattino, glielo chiederò la prossima volta. Via.